Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vi dico già che a parte alcune dichiarazioni arrivate nel fine settimana, mi riferisco soprattutto al ministro Saccomanni, non ci occuperemo se non marginalmente del toto governo. Perché? Perché tendiamo a occuparci di notizie, non di ipotesi, ma soprattutto perché, come sapete dai nostri GR, Renzi ha accettato l'incarico con riserva. Ci sono stati già alcuni soggetti che si sono defilati in diretta con noi venerdì, Davide Serra, finanziere, l'uomo che ha introdotto Renzi nella comunità finanziaria italiana a Milano, aveva già detto no, non parteciperò al governo Renzi. Poi è arrivato nel fine settimana il no anche di Oscar Farinetti, altro diciamo grande sponsor di Renzi, altro grande protagonista della Leopolda, quindi il proprietario e fondatore di Italy. E poi ieri anche il no di Andrea Guerra, un numero uno di Luxottica, anche lui intervenuto da Leopolda, anche lui molto vicino a Matteo Renzi. Quindi è inutile adesso continuare con il toto ministri. Quello che è chiaro invece è che vi sono, oltre ad alcune dichiarazioni, c'è complessivamente un'attesa, chiamiamola così, positiva da parte dei mercati e degli investitori, e questo lo si vede da tanti indicatori. Attesa cautamente positiva non vuol dire che non siano pronti a cambiare opinione, però vuol dire che in questo momento, per esempio, lo spread italiano con il Bund tedesco è sceso a 191 punti base, la prima volta che scende a un livello così basso dal 24 gennaio del 2006, quindi c'è un vantaggio obiettivo per i nostri conti pubblici, perché non paghiamo, o meglio, il tasso di interesse sul BTP decennale è al 3,60%, non paghiamo un tasso di interesse così basso sul BTP a 10 anni dal 24 gennaio del 2006, quindi ben prima che la crisi scoppiasse, la crisi internazionale. E questo è già un indicatore. Poi la borsa è cautamente positiva a Milano, devo dire, visto che Parigi fa meno 0,13, Francoforte è invariata. Il più 0,16 di Milano è un buon dato, in linea, molto forte Mediaset più 4%, la Pop Milano più 2,24%, Mediobanca più 1,90%, Luxottica più 1,70%, e qui è da attribuirsi anche alla dichiarazione di Andrea Guerra. Luxottica aveva perso infatti la settimana scorsa sull'ipotesi che Andrea Guerra potesse lasciare il gruppo e diventare uno dei ministri di Renzi. Quando Andrea Guerra ha smentito, il titolo sta guadagnando, a dimostrazione che gli investitori apprezzano, questo lo si può dire senza nessun dubbio, apprezzano il ruolo che Andrea Guerra svolge in Luxottica. Telecom Italia più 1,5%, Intesa San Paolo pure, e anche Ferragamo guadagna l'1,5%, Finmeccanica più 1,20% come Azimut, e Mediolanum più 0,90%. Chi perde oggi in borsa? Soprattutto Campari, ma nulla di particolarmente drammatico, meno 1,30%, Prismian meno 1,20% come Pirelli, l'1% lo perde Jux, e anche A2A, lo 0,80% il calo di Tods, Terna, Enel ed Exor, e anche Fiat. Quindi uno volesse dire, nel duello che di nuovo ha visto contrapposti John El Khan con Diego Della Valle, oggi la borsa lì tra virgolette penalizza tutti e due nello stesso modo, non c'entra niente chiaramente, però meno 0,80% Tods e meno 0,80% anche Exor, che è la controllante del gruppo Fiat. Ancora, per quello che riguarda invece le interviste che stiamo portando avanti, la settimana scorsa abbiamo avuto il numero uno di Finmeccanica Pansa, oggi sarà la volta del numero uno di Alitalia del Torchio, dopo che venerdì è stato firmato l'accordo con i sindacati sulla cassa integrazione a rotazione. Quindi nessuno perderà il posto di lavoro, ma vi sarà una cassa integrazione a rotazione. Chiederemo al numero uno di Alitalia anche che cosa si attende dal governo, perché è inutile girarci attorno. Il dossier Alitalia, per quanto sia un'azienda privata, è il dossier più scottante, più impellente del nuovo governo, perché qui devono entrare entro un paio di mesi gli arabi di Etihad, quindi di Abu Dhabi, con una quota che sfiorerà il 50%, fondamentale per rilanciare, ci auguriamo definitivamente, la compagnia Alitalia. E anche di questo parleremo, però avremo in apertura anche tutto un insieme di dichiarazioni su un settore che vale tantissimo per il nostro PIL, è il turismo. Si è chiusa infatti questo fine settimana la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, e ne abbiamo parlato con il presidente degli associati di Confindustria nel turismo e degli associati di Confcommercio nel turismo, per capire anche. C'è una cosa molto interessante, c'è un indicatore che va a vedere come va il turismo di affari e l'andamento del turismo d'affari. Ecco, la cosa interessante è che la curva dell'andamento del turismo d'affari è praticamente sovrapponibile all'andamento del PIL, quindi è un indicatore, come si chiama in gergo, anticipatore, e vedremo come sta andando le prospettive sul turismo d'affari, vista questa fortissima correlazione con l'andamento complessivo poi dell'economia italiana. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente, e la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, l'energia è crollato del 12% tra il 2006 e il 2012 il consumo di energia in Italia, però siamo quarti a livello europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che c'è costa tanto in bolletta, però, perché come spesso spieghiamo le bollette sono aumentate non perché aumenta il costo del gas o del petrolio, anzi, ma perché paghiamo tutti gli incentivi al fotovoltaico e altre fonti rinnovabili. Per quello che riguarda invece il braccio di ferro Svizzera-Europa, oggi sostanzialmente i negoziati per l'estensione dei trattati per la ricerca Horizon 2020 e Erasmus sono rinviati dall'Unione Europea, gli accordi con la Svizzera, finché non avremmo, ha specificato Bruxelles, la notificazione formale che la Svizzera non ha la volontà di firmare l'accordo di libera circolazione con la Croazia. Allora, dalla Germania la banca centrale, la Bundesbank, fa sapere che l'economia tedesca va verso una situazione di stabile e forte slancio e dovrebbe riprendersi in modo significativo nel semestre invernale 2013-2014. In Spagna il debito pubblico è salito invece al 94% del PIL, verso quota 1000 miliardi di euro. Pensate che all'inizio della crisi la Spagna vantava un debito pubblico bassissimo del 36% del PIL, la metà di quello europeo e un quarto di quello italiano in proporzione al PIL. Ecco, le ferite e la crisi economica, in particolar modo del mondo delle banche medie, regionali e legate ai valori in bolla del mercato immobiliare, hanno fatto sì che adesso il debito spagnolo in sostanzialmente 6 anni sia quasi triplicato, dal 36% del PIL al 94%. Da Bruxelles però è arrivata anche una preoccupazione, perché l'Italia non ha ancora comunicato i dati all'Europa da prendere in considerazione su quelli che saranno gli effetti e i benefici per la spending review che il governo aveva messo nella manovra finanziaria, il governo Letta. Nel frattempo il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, per cui qualcuno di voi ricorderà per una mitica dichiarazione, ma non voglio tornare sul tema, ha detto: la stabilità politica è importante, l'Italia deve migliorare la competitività dell'economia e, come ogni paese, fare ciò che deve fare. Mi auguro che il nuovo governo si insedi il più in fretta possibile. Vabbè, siamo così alla fiera dell'ovvio. L'agenzia di rating Fitch dice che la crescita potenziale dell'Italia resta debole e servono le riforme strutturali in grado di aumentarla. Per quello che riguarda le previsioni sull'Italia, restano negative per le incertezze politiche. E scrive Fitch: Matteo Renzi avrà probabilmente le stesse difficoltà del suo predecessore nel fare le riforme che rilancerebbero la crescita e la competitività economica dell'Italia. E poi sottolinea che le dimissioni di Letta mostrino tutta la volatilità politica italiana. Renzi è il quarto premier, ed è vero, dal 2011. per quello che riguarda il premier incaricato Matteo Renzi, ha detto che entro febbraio dovrebbero arrivare, compiremo un lavoro urgente sulla riforma della legge elettorale e subito dopo, nel mese di marzo, la riforma del lavoro, in aprile la pubblica amministrazione e in maggio il fisco. Partirò dall'emergenza del lavoro e metterò tutto il coraggio e l'energia che ho, ha continuato Matteo Renzi. È arrivato poi un endorsement da Tony Blair, dice l'Europa lo sostenga compatta, l'Europa ha bisogno che l'Italia assuma il ruolo che le compete nella leadership dell'Europa e i leader europei dovrebbero sostenere compatti Matteo Renzi mentre si assume le responsabilità per il futuro del suo paese. Chissà se è un endorsement anche così biografico, visto che vado a memoria, ma Tony Blair quando prese la carica di primo ministro aveva l'età di Matteo Renzi, perché aveva 39 anni, forse ne aveva 40, a me sembra 39, però insomma c'è forse anche un'affinità biografica nelle parole di Tony Blair. Per quello che riguarda lo spread italiano, abbiamo detto a 191 punti base, anche se sono arrivate alcune dichiarazioni dal commissario europeo Tajani, vicepresidente della Commissione europea, ha detto che l'Italia è in vergognoso ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, è il peggior pagatore d'Europa, peggio della Grecia. Paradossalmente in Italia le imprese non falliscono per i debiti ma per i crediti non riscossi ed è inaccettabile, siamo d'accordissimo. E l'allentamento del deficit al 3%, ha detto Tajani, può arrivare solo se l'Italia avrà un progetto serio. È cruciale la scelta di chi sarà il ministro dell'economia. E a questo proposito, il ministro ancora in carica per sbrigare le ultime pratiche dell'economia, Fabrizio Saccomanni, ha detto sul fiscal compact, cioè quell'accordo che prevederebbe dal 2015 di ridurre di circa 48 miliardi all'anno il nostro debito per 20 anni, ha detto ma insomma nessun paese chiede il superamento del fiscal compact. Posso dire con tranquillità che non esiste nessun paese che abbia obiettivamente proposto di cambiare il fiscal compact, che è tra l'altro un trattato che l'Italia ha ratificato e che, ripeto, è stato poi incorporato nella nostra Costituzione. Quindi, diciamo, si può sempre, come dire, provare, però diciamo la situazione di partenza non è molto incoraggiante. Io credo che invece bisogna fare di più, insistere ancora perché l'Europa utilizzi gli strumenti che ha a disposizione, sia col bilancio comunitario che la Banca Europea degli Investimenti, per dare un segnale forte di sostegno all'attività economica. E poi sempre il ministro Saccomanni, attenti al cambio di passo, c'è il rischio che ci si fermi. Sì, però ministro, noi abbiamo già polemizzato a lungo con lei. Allora, è ovvio che ogni cambio di passo prevede una certa incertezza, ma anche il galleggiare perennemente porta a nulla di fatto, anche sopravvivere non porta a nulla. Allora a me fa un po' specie che chi non ha mai battuto i pugni in Europa per chiedere maggior rispetto per le politiche di crescita e non solo di austerità, nel mostrare che l'Italia i compiti li ha fatti, ha una situazione di entrate e uscite migliore di altri paesi, adesso dica attenzione al cambio di passo. No, ci vuole un cambio di passo, abbia pazienza ministro, e continuare a dire beh se si cambia il passo allora stiamo tutti quanti fermi immobili e vediamo cosa succede e questo sarebbe il compito della politica. No, è un compito che lei, a mio avviso lei interpreta in maniera minimale se la pensa così. Comunque lo ha detto, abbiamo attenti al cambio di passo, c'è il rischio che ci si fermi, e poi ha continuato anche dicendo ho provato disappunto per la presa di posizione di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, quando disse attenzione che qua la ripresa non si vede, c'è il rischio di desertificazione dell'industria italiana, nella polemica che lo contrappose allo stesso Enrico Letta. Abbiamo fatto certe cose, credo che la continuazione di questa strategia sia importante, si può cercare di accelerare il passo, ma stiamo attenti che quando si cambia il passo alle volte diciamo, il primo effetto è che ci si ferma pensando a quale passo poi assumere. ho provato, e del resto ho avuto occasione di dirlo anche al presidente Squinzi, ho provato, come dire, un profondo disappunto, perché francamente la Confindustria è un sindacato, è il sindacato degli imprenditori e come tale ha tutto il diritto di chiedere quello che chiede, riduzione del costo del lavoro, delle tasse, eccetera. Quando si pone come interlocutore del governo sulla politica economica, sulle strategie di politica economica, dovrebbe anche, secondo me, dire che cosa il mondo delle imprese può fare per superare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, la piccolezza delle nostre imprese, la loro sottocapitalizzazione, la loro, in molti casi, incapacità di competere sul mercato globale perché non hanno fatto gli investimenti in nuove tecnologie. Sono analisi che io ho lavorato in Banca d'Italia fino a un anno fa, le abbiamo fatte per anni e anni, e io credo che anche l'industria, anche la Confindustria deve porsi questo problema. Allora, caro Ministro Saccomanni, innanzitutto è giusto che gli imprenditori, chi dà lavoro, ma anche i sindacati chiedano iniziative che sono mancate completamente nelle leggi finanziarie sulla pressione fiscale sul mercato del lavoro, di chi le tasse le paga fino all'ultimo euro e si chiama cuneo fiscale. In secondo luogo, io sono d'accordo con lei, ne abbiamo parlato moltissime volte in questi anni, ci sono problemi strutturali delle nostre imprese, delle volte troppo piccole, delle volte più che piccole è importante se sei nano, perché piccolo può essere una dimensione corretta, se sei in filiera, se sei integrato, se fai parte di una filiera o verticale o orizzontale, non posso adesso toccare il tema. Così come ci sono altri problemi, penso per esempio al passaggio generazionale, che non sempre avviene in maniera corretta e non sempre genera valore nelle imprese. Penso anche giustamente alla capitalizzazione. Negli anni delle vacche grasse devo dire che alcuni imprenditori non hanno investito sufficiente nelle imprese, tanto c'erano le banche che a quel tempo prestavano i soldi con molta facilità. Tutto giusto, però avrei anche apprezzato che le notasse come l'unica voce positiva di questi 4 anni nella nostra economia è l'export. L'export lo fanno le imprese italiane, piccole, medie e grandi, nonostante un euro a quota 1,36, 1,40, 1,35, quindi vuol dire che la capacità di competere c'è se abbiamo l'export a record in questi anni e siamo il secondo paese come volume e valore di export dopo la Germania in Europa. Allora, e interi settori si sono già spostati sulle fasce a maggior valore aggiunto, per cui, però Ministro, con l'export nessuno riuscirà mai a riequilibrare il calo dei consumi interni, cioè non basta un euro in più di export per riequilibrare 3 euro, più o meno il rapporto è questo, 3 euro in meno di consumi interni, e ci sono migliaia di imprese italiane che vivono anche e soprattutto sui consumi interni degli italiani. Allora, se non capiamo questo, non ci capiamo, perché quello di cui lei parla è una cosa giustissima che diciamo da anni, almeno da quando esiste questo programma, quello che le imprese non hanno saputo fare, non hanno fatto, dove devono andare, e devo dire che il Centro Studi Confindustria su questo ha fatto decine e decine di lavori, di assise, per ragionare sulle sfide nel futuro. Però con una pressione fiscale del genere e con i consumi che sono crollati, tant'è che siamo quasi in deflazione, è difficile dare la colpa solo all'incapacità delle imprese di esportare, anche perché non mi sembra. Comunque, oggi Guido Barilla, presidente della Barilla, ospite di Giovanni Minoli a Mix 24, sempre su Squinzi, Letta dice: Squinzi ha fatto bene a criticarlo. Non per Letta di per sé, no, come no, persona, certo. È stato durissimo col governo, perché la situazione dell'industria oggi è insostenibile. L'Italia, chi fa industria in Italia è in grave difficoltà per una serie di ragioni. C'è bisogno di una serie di riforme, bisogna rivalutare la pressione fiscale, perché non è sostenibile né per la grande, né per la media, né per la piccola ma neanche impresa, per i cittadini. E neanche per i cittadini. E questo il paese deve comprenderlo, non è quella la porta per la risoluzione. Senta, lei più volte è stato critico però con Confindustria, perché? Certo, perché io penso che Confindustria sia stata lenta nel riconcepire il suo ruolo in questo momento di grande trasformazione. E poi vorrei farvi ascoltare un passaggio di Guido Barilla sulla Fiat. Allora, io non voglio entrare nella polemica, anzi, sentiamo Barilla sulla Fiat e poi un accenno a John Elkann. La Fiat ha avuto molto dal nostro paese. Confindustria è stato lo strumento della Fiat per attraverso quale, cioè, quando non è più servita l'ha mollata. Poi ci sono delle logiche aziendali che seguono un'altra strada, per cui la Fiat ha diritto di fare le proprie scelte. È un'altra epoca. E di diventare più competitiva, se lo ritiene, con una certa modalità. Allora, volete un mio commento sulla polemica John Elkann, Diego della Valle? No, mi sono limitato a dire già la settimana scorsa: scrivetevi, c'è WhatsApp, ci sono le mail, ci sono gli SMS, scrivetevi, perché non è che tutto il paese resti col fiato in sospeso per le dichiarazioni botta risposta da John Elkann e Diego della Valle. Il paese ha anche altri problemi. Ha soprattutto altri problemi. Detto questo, il problema non è, venendo all'ultima polemica sui giovani, non è nel contenuto, perché a mio avviso uno può anche dire, e mi riferisco a John Elkann a Sondrio davanti a 600 studenti, può anche dire che ci vuole maggiore spirito di iniziativa, ci vuole maggiore coraggio, però il problema è chi lo dice. E torniamo al solito problema degli scivoloni. Cioè, voglio dire, se io non ho figli o non mi sono mai occupato dei miei figli, è difficile che possa essere credibile, uso un altro esempio volutamente, se do lezioni su come si educa un ragazzo, no? Cioè, allora è chiaro che il ragionamento di per sé stesso non era. Io posso essere anche d'accordo che in Italia il merito esista in molti campi, non è vero che tutto sia raccomandazioni spintarelle, lo pensa solo chi non ha altri mezzi. Però dipende chi lo dice. Ecco, in questo caso l'opportunità di dirlo lui non la vedo, per tutto un insieme di motivi: perché ha avuto una storia biografica completamente diversa da quella di un giovane normale italiano, perché è presidente della Fiat non per merito ma perché rappresenta la famiglia azionista, cioè, per tutto un insieme di motivi, per cui lasciatele dire ad altre queste cose, lasciatele dire a qualcuno che è più credibile. Non è il contenuto che è sbagliato, è la credibilità della fonte, di chi lo esprime questo contenuto. E chiudiamola qua. Comunque la borsa anche lei l'ha chiusa qua, ossia più 0,18%. Adesso il meteo e la pubblicità, poi parliamo del turismo italiano e della borsa, e infine di Alitalia. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è chi dice, insomma, ma che cosa lei dice su Elkann? Perché non può motivare i giovani con esempi? Appunto, perché non è un esempio da questo punto di vista. Non mi fate parlare oltre. Cioè, io sono un fumatore e sbaglio, ma se andassi da una platea di giovani a dire tutto l'errore di chi fuma, non sarei credibile, perché fumo. Allora, se è giusto parlare del merito che esiste in questo paese, è giusto dire che occorre maggiore spirito di iniziativa, determinazione, però non lo puoi dire tu che hai avuto un percorso, non per tua colpa, per tua fortuna anzi, ma hai avuto un percorso completamente diverso, perché ti chiami John Elkann e sei in quella posizione lì perché la tua famiglia è azionista della Fiat. È ovvio che poi ti vieni travolto dalle polemiche. Io mi sorprendo, diciamo, nello staff di comunicazione a questo punto, perché è ovvio che una frase del genere si presta subito dopo alle polemiche. Lo dici tu che non sai di cosa stai parlando. Erano polemiche assolutamente prevedibili, tutto qua. Non che fosse sbagliato il contenuto, anzi, che i giovani debbano darsi una mossa in più è verissimo, che in questo paese il merito esista più di quanto non si dica a mio avviso è verissimo. Detto ciò, cambiamo radicalmente tema e andiamo sul turismo, che è uno dei settori fondamentali per la produzione del nostro PIL. Si è appena chiusa la Borsa Internazionale del Turismo nell'edizione 2014. Eh sì, si è conclusa la BIT, la 34esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo, tutta già orientata all'Expo 2014. e 15, oltre 100 i paesi presenti, con alcune new entry: Armenia, Lettonia, Botswana, Nicaragua. 2130 gli operatori del turismo, le imprese del turismo partecipanti, e quasi 60.000 i visitatori, con oltre 700 buyers internazionali. Questo in un settore che significa tuttora per l'Italia il 10% del PIL, cioè 160 miliardi di euro vale il turismo in Italia come contributo, con 2.200.000 persone incluso l'indotto. Però in un periodo in cui anche il turismo per motivi di lavoro, cioè il turismo d'affari, ha risentito duramente della crisi, l'Istat ha fotografato un 2013 in cui vi è stato un vero e proprio crollo dei viaggi degli italiani, cioè meno 19,8% per quello che riguarda i residenti in Italia. Anche le notti si sono ridotte del 17%, resta stabile la durata media dei viaggi, circa 6 notti e mezzo, 7 notti per quelli di vacanza, 2 notti, quasi 3 notti per quelli di lavoro. In realtà sono crollati i viaggi con mete italiane, hanno mostrato un calo del 20%, ma anche i viaggi verso l'estero si sono ridotti del 21%, con una riduzione molto forte dei pernottamenti in albergo, meno 24%, e un crollo vero e proprio dei viaggi per motivi di lavoro, meno 43% i viaggi, meno 48% i pernottamenti. In realtà le buone notizie arrivano sul 2014, soprattutto per quello che riguarda l'indagine Eurobarometro diffusa lo scorso fine settimana. Prevede che per il turismo europeo che solo l'11% degli europei non andrà in vacanza quest'anno. Le mete favorite restano stabili e confermano l'Italia in terza posizione, dietro Spagna e Francia, ma in crescita, a un 10% con un più 2%, cresce anche la Spagna, cresce anche la Francia. Seguono poi Germania e Austria. Allora, ringrazio per averci raggiunto in studio il presidente di Confturismo, Confcommercio e presidente del gruppo UVET, che è un polo distributivo del turismo, che è un giro d'affari di 2 miliardi e 200 milioni di euro. Luca Patanè, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. E grazie anche in collegamento con noi al presidente di Federturismo Confindustria, Renzo Iorio. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Patanè prima e poi Iorio. Leggevo i dati sul 2013, sono abbastanza emblematici sul fronte dei turisti italiani, sia come pernottamenti per vacanze che come pernottamenti per lavoro. Qualche ottimismo può nascere dall'indagine Eurobarometro, che vede l'Italia comunque al terzo posto. Che sensazione avete registrato voi, in primo luogo Patanè, da questa beat che si è appena chiusa? Io sono stato sia giovedì che venerdì in BIT, posso dire che rispetto all'edizione dell'anno scorso ho visto una maggiore frequenza e un maggior numero di operatori presenti. Ovviamente queste sono le prime impressioni, prima di avere dati ufficiali e tutta una serie di cose. C'è un po' di entusiasmo crescente relativo soprattutto all'Expo e quindi all'avvicinarsi della famosa 2015, per cui si inizia a sentire anche l'influenza che l'Expo potrà esercitare proprio sulla BIT e anche sul comparto, e quindi si respira, diciamo, questa aria di speranza. Dovrebbe attraversare 2014-2015. Ecco, poi avremo anche un indicatore che voi elaborate, che è un indicatore di carattere economico, perché poi lo spiegherò, ma insomma coincide praticamente storicamente con quello che poi è l'andamento del ciclo economico, è l'indicatore, diciamo, delle intenzioni di viaggio, delle intenzioni di spesa nel mondo del viaggio. È veramente emblematico vedere come questa curva, diciamo, sia quasi interamente sovrapponibile alla curva complessiva del ciclo economico. Però volevo capire anche da Iorio se anche lei ha raccolto dei segnali di cauto ottimismo, comunque di un po' di risveglio, anche e soprattutto in vista dell'Expo. Io devo dire che condivido fino a un certo punto le opinioni di Patanè, nella misura in cui io credo che la BIT oggi rappresenti di fatto una realtà dove paradossalmente ci vanno quasi sostanzialmente gli enti e le organizzazioni pubbliche, sempre meno le imprese. E questo è anche un segnale, credo, di una dicotomia molto forte tra dove si sviluppa oggi il mercato, che essenzialmente si sviluppa con un acquisto diretto da parte dei turisti, dei clienti su internet, essenzialmente per quanto riguarda la destinazione paese Italia, da clienti che sono molto lontani dall'Italia per luogo di residenza, sempre meno rispetto a una clientela domestica per le ragioni che ben conosciamo dell'andamento dell'economia, e sempre meno attraverso i modelli di distribuzione tradizionali, che sono invece quelli che mi sembra continuino a essere presenti in questo tipo di fiere. Credo quindi più a un momento di autocelebrazione piuttosto che a un vero momento in cui si ha il polso dell'andamento. Con questo, i segnali invece che lei citava per l'anno 2014 sono assolutamente incoraggianti, dopo tutte le difficoltà che abbiamo attraversato dal 2007 in avanti, nel senso che l'attenzione verso l'Italia da parte soprattutto della clientela europea e internazionale in chiave, diciamo, turistica e in parte in chiave business resta più che evidente. Certamente il crollo della domanda interna è inequivocabile, ma non potrebbe essere diverso con anche le ristrutturazioni aziendali, i tagli alle movimentazioni delle persone che sono state effettuate in questi anni. Allora, Patanè, chiaro il discorso di differenza tra BIT e resto del mondo, e resto, diciamo, del paese, però io vorrei capire una cosa. Intanto le prospettive che arrivano dal vostro indicatore, ripeto, che è di settore ma ha una grossa simmetria con quello che è l'indicatore macroeconomico generale di come andrà il ciclo economico. Sì. E poi, però, una domanda per tutti e due. Va bene, ripartirà la presenza degli stranieri in Italia, però io vorrei capire se riparte come conseguenza di un miglioramento dell'economia generale, o anche perché nel frattempo, in questi anni di vacche magre, abbiamo fatto dei compiti a casa anche nel settore del turismo, cioè vi siete dati una struttura più forte, siamo riusciti a fare un incoming, come lo chiamate in gergo, più competitivo con altri paesi, avete avuto anche modo di coprire l'intera filiera. Cosa voglio dire? Sappiamo che delle volte ci sono interi pezzi del nostro turismo che sono monopolizzati dai grandi tour operator stranieri, che dicono così oppure andiamo in Spagna, oppure, quindi il gioco è tutto, diciamo, sul ribasso. E se c'è stata anche una sensibilizzazione dei vostri aderenti e associati, che delle volte, diciamo, per essere buoni, si erano anche molto seduti sugli allori negli anni passati. Mi riferisco all'offerta alberghiera, ma non solo, anche ai pacchetti che mancavano, a offerta integrata. Quindi indicatore, ma anche questi dati in leggero miglioramento sono merito anche vostro, oppure voi avete atteso, diciamo, a bordo fiume che la situazione migliorasse? Prego. Allora, il nostro indicatore, che è un indicatore che ormai è vecchio, dal 2007 abbiamo iniziato a monitorare, diciamo, gli andamenti, e dal monitoraggio degli andamenti, come avevamo accennato al Biz Travel Forum di novembre, sta confermando gli andamenti. Noi confermiamo che, secondo le previsioni, ci sarà una crescita del numero dei viaggi da fare, intendo in questo senso, del segmento dei viaggi da fare del 9% quest'anno, e una crescita nei volumi del 5%. Queste sono le previsioni che facciamo, dovute ormai a una storicità dell'analisi del dato e poi a una correlazione che facciamo col PIL. Correlazione che noi avevamo fatto una stima, c'eravamo entrati una stima di crescita del 1% del PIL per il 2014, che stiamo confermando, anche se oggi non si vedono i segnali non si vede il beneficio, lo confermiamo in funzione di questi acquisti che noi riusciamo a monitorare prima e a capire poi l'effetto reale che avranno. E devo dire che la correlazione, come si chiama in gergo statistico, tra l'andamento degli acquisti dei viaggi d'affari e l'andamento del PIL complessivo dell'Italia, adesso non posso mostrare i grafici per radio, ma è veramente impressionante. Le due curve praticamente sono quasi sovrapposte. Per quello che riguarda i meriti della ripresa del turismo, sono solo esogeni, cioè cresce l'economia mondiale e quindi anche noi becchiamo qualcosa di questa torta, oppure c'è stata una capacità di aumentare produttività e competitività dell'industria del turismo italiano? Beh, non dobbiamo dimenticarci che la crisi di questi anni ha pulito e sta ripulendo ancora il settore, quindi l'inefficienza è stata spazzolata, nel senso che moltissime aziende non efficienti sono scomparse dal settore, quindi questa crisi ha lasciato dei profondissimi segni, chiaramente. D'altra parte, forse una cosa che c'è da dire è che la domanda, la crescita della domanda mondiale di nuovi turismi, quindi di nuovi paesi che si affacciano, paesi in via di sviluppo che si affacciano proprio a visitare il nostro paese, questa porterà a sicuramente a un incremento e a una crescita. Quindi, per rispondere alla sua domanda con una precisazione, l'industria si è resa più efficiente, più globale da un certo punto di vista, e quindi cercherà di venire sempre più incontro alle nuove domande, ma non dimentichiamoci che la congiuntura è fondamentale, soprattutto per la domanda interna. Vabbè, non ci sono dubbi che la congiuntura economica sia fondamentale, però dopo il traffico vorrei sapere anche l'opinione del presidente di Federturismo, perché insomma i limiti, gli errori della nostra industria del turismo ci sono stati nel passato. Comunque il traffico. Di nuovo in diretta, allora, presidente Iorio, è merito anche della pulizia al vostro interno, della crisi che ha avuto un percorso di selezione, mi dispiace dirlo, quasi darwiniana, o state solo agganciando la crescita economica mondiale, ma i compiti a casa ne avete fatti pochi? Sì, direi assolutamente di sì, aggiungendo anche l'effetto di una grande democratizzazione e informazione che si è realizzata nel turismo con i social network, per cui le singole aziende che non solo non erano efficienti ma anche tra virgolette trattavano male il cliente, diciamo il loro impatto negativo non si limitava all'esperienza del cliente specifico, ma nel momento in cui lui parla sulla rete evidentemente amplifica l'immagine. Questo credo abbia sensibilizzato molto le aziende a qualunque livello dal punto di vista della responsabilità verso il cliente. Dopodiché non posso che condividere il punto di vista di Patanella. La crisi ha profondamente toccato il nostro settore, fa resistere i migliori soggetti, spinge anche ad aggregazioni dimensionali che sono necessarie per affrontare un mercato globale. Favoriti da un mercato generale che cresce a dei ritmi intorno al 4-5% a livello mondiale. Il vero problema resta il problema paese in termini di capacità di stare sull'onda di questa crescita, e qui la inadeguatezza del nostro sistema di governance effettivamente pesa in modo significativo. Ci auguriamo, tra i punti che Renzi ha nel suo, diciamo, programma o comunque nei suoi propositi, c'è una profonda revisione del titolo quinto della nostra Costituzione, che cambiato nel 2001 ha portato la responsabilità esclusiva in materia di turismo alle regioni, e quindi ha privato l'Italia della possibilità di fare una seria politica su uno dei settori fondamentali su cui si basa la sua economia e le sue prospettive di sviluppo. Ci auguriamo davvero che questa revisione sia profonda e coraggiosa e riporti una competenza esclusiva allo Stato, perché l'esperienza regionale credo sia stata davvero nefasta in termini di risultati reali sulle nostre imprese, ma anche di spesa pubblica che hanno raggiunto delle dimensioni. Su questo io sono assolutamente d'accordo. I grandi paesi del turismo, penso alla Francia ma non solo, si muovono su base nazionale anche nel promuovere le regioni, e non certo lasciano ogni regione poi magari con il coté della missione della regione X in Cina o in India per promuovere le bellezze del territorio, che sappiamo poi che cosa tendeva a promuovere in realtà. Due domande rapidissime, sì o no, Iorio, ma vi ha fatto più male, o nel senso vi ha sferzato di più, la crisi o internet, cioè TripAdvisor e tutto ciò che ne consegue? Direi essenzialmente direi la crisi, perché il TripAdvisor al limite ha selezionato e dato alle imprese l'obbligo di essere responsabili verso un cliente. Sì. La crisi ha invece toccato in modo profondo la capacità di spesa, e a questa soprattutto abbiamo dovuto rispondere in termini di organizzazione delle nostre imprese e dell'erogazione dei servizi. Patanè? Ma il mondo di internet per noi è stato un grande stimolo, e non solo TripAdvisor, ma TripAdvisor come battuta la usavo. Certo, diciamo tutti i sistemi digitali di digital economy, dove io vedo un grande sviluppo nel nostro comparto, un'ottimizzazione delle aziende, assolutamente. Quindi più quello e la crisi ha cosa ha fatto? Ha fatto il resto? La crisi ha fatto il resto. Mi dite un'ultima cosa, l'ENIT, l'ente nazionale per la produzione turistica, che non riesce a promuovere nulla se non se stesso, va definitivamente chiuso, Iorio? Ma secondo me non nella misura in cui si fa la riforma del titolo quinto, perché ogni paese che si rispetti un ruolo nel turismo deve avere una sua agenzia che promuove l'Italia. Certamente così come è fatto oggi è una spesa totalmente inutile, ma lo scandalo per me non sono i 18 milioni che spende, che costa l'ENIT all'anno, lo scandalo sono i 600 milioni che spendono le regioni. Patanè? Sono assolutamente d'accordo con Iorio, noi, anche noi la pensiamo negli stessi termini. Ci vuole una governance del turismo centralizzato, essendoci una governance centralizzata si può ovviamente ottimizzare la spesa. Quindi sia l'ENIT solo se il turismo passa come delega su base nazionale non più regionale, e però levando anche i soldi in parte alle regioni per questa promozione che obiettivamente non serve a nulla. Guardate il modello francese, la Francia con l'ente nazionale promuove poi le singole regioni, ma non lascia la regione decidere quanta quota parte dare. Grazie al presidente di Confturismo, Confcommercio del gruppo Uvet, Luca Patanè, grazie anche al presidente di Federturismo e Confindustria, Renzo Iorio. E adesso passiamo alla borsa, vedo, alcuni di questi possono essere spunti per il futuro governo, immaginiamo appunto, visto che ha accettato l'incarico con riserva di Matteo Renzi, fermo restando che le priorità, a mio avviso correttamente, che lui ha dato sono legge elettorale, riforma del mercato del lavoro, riforma della pubblica amministrazione. Però anche queste sono cose che andrebbero riviste. Alcuni dicono che è aumentato il turismo grazie ai viaggi degli assessori regionali, dei consiglieri regionali, sì, una volta, adesso mi sembra che anche lì siano ben più controllati. La borsa, dicevo, più 0,11% Milano, meno 0,11% Parigi, invariata Francoforte, più 1% Londra, più 0,80% l'America. Molto forte Mediaset, più 3,40%, Pop Milano più 2,80%, Mediobanca più 1,60% come Luxottica, l'1,5% lo ha guadagnato Telecom Italia e anche Salvatore Ferragamo, l'1,40 Intesa San Paolo e Finmeccanica, l'1,20 Azimut. Negativa Pirelli, meno 1,35, Prismian, meno 1,1 come Jux, Campari e A2A, l'1% lo ha perso Terna, Enel ed Exor, lo 0,80 Snam e Tods. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora partiamo, poi proseguiremo dopo il GR, partiamo da Mediaset da un lato e dall'altro anche Mediobanca che domani pubblicherà la semestrale. Sì, allora Mediaset ha raggiunto i massimi da maggio 2011, ricordiamo qui ancora un effetto Champions League da quando la società si è aggiudicata i diritti TV per la Champions League, il titolo ha guadagnato circa il 10%, dall'altra parte si aspettano sempre novità sul dossier Pay TV, ricordiamo che Mediaset sta creando una newco, cioè una nuova società da aprire anche ad investitori terzi, in cui confluiranno le attività italiane e quelle spagnole della TV a pagamento. Per quanto riguarda Mediobanca, Mediobanca ovviamente come tutti i titoli del comparto bancario oggi ha beneficiato della discesa dello spread a quota 193 punti base, sono i minimi da giugno 2011, mentre il rendimento è al livello più basso da febbraio del 2006. A parte questo ricordiamo appunto, come dicevi tu, che dopodomani la società approverà la semestrale. Inoltre gli analisti apprezzano anche la recente cessione della quota del 2% circa di sì. RCS, sottolineando che appunto è positiva questa rifocalizzazione del business sul settore bancario. Allora una nota di servizio agli ascoltatori, l'abbiamo detto in apertura del programma che l'America è chiusa oggi, c'è il present days, ho citato la chiusura del Dow Jones a 0,80%, attenzione, poi capisco che non tutti seguono la puntata fin dall'inizio, però l'avevamo detto citando la borsa appena aperto il programma, grazie comunque per la segnalazione. Livia, resta con noi perché dopo invece vorrei commentare altri titoli e mi riferisco a Telecom con la questione Team Brasil, ma anche al settore del lusso un po' in contrasto, dopo il GR. alle 18:08, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, Livia Zancaner. Stavamo analizzando la borsa e dicevo, al di là di chi si è mosso bene, Mediaset, Mediobanca, c'è un titolo del lusso che è Luxottica, che fa più 1,60%, ma lì è da attribuirsi al fatto che Andrea Guerra ieri abbia dichiarato che non farà parte del governo Renzi, così come il titolo aveva perso venerdì sull'ipotesi che Andrea Guerra lasciasse e Luxottica adesso guadagna. Perché tutto, lo dico perché tutto il resto del lusso invece mi sembra un po' più in difficoltà. Sì, allora diciamo che Tots e Jux in particolare sono colpite dai realizzi, Jux perde oltre l'1% e Tots lo 0,68%. Va bene invece come Luxottica anche Salvatore Ferragamo, che ha guadagnato l'1,5%. C'è un'intervista di oggi in cui il presidente Ferruccio Ferragamo dice che il gruppo resterà focalizzato in Italia ed esclude nuove acquisizioni, quindi probabilmente la borsa ha premiato queste dichiarazioni. Due titoli ancora, Telecom Italia continua a tenere banco la questione Team Brasil, e dall'altro Fiat debole oggi, sia Exor meno 0,90 che poi ha un po' recuperato il titolo Fiat meno 0,13%. Sì, allora Telecom ha guadagnato l'1,5% con il risparmio che hanno segnato più 2% circa. Oggi vi sono alcuni analisti che puntano i riflettori sul buon andamento della controllata brasiliana Team Brasil, che continua a sovraperformare il mercato in Brasile. Gli analisti poi si focalizzano anche su possibili operazioni straordinarie, come si è detto nei giorni scorsi, quindi una possibile vendita del Brasile, una fusione con GVT, che ricordiamo è del gruppo Vivendi, e dicono che appunto l'operazione potrebbe avere sinergie significative per il gruppo Telecom, ma danno l'operazione come possibile a partire dal 2016, quindi non al momento. Fiat? Allora Fiat oggi è debole, segna meno 0,13%, questa mattina il gruppo ha risposto ai quesiti della Consob spiegando che Chrysler non potrà distribuire dividendi superiori al 50% degli utili netti, hanno anticipato per il 2014 ricavi in rialzo del 7%, 93 miliardi, hanno detto anche che recente downgrade di Moody's dovrebbe avere un impatto limitato sui conti. Allora, miglior titolo Worldspace più 31,60, Bialetti più 29, Edes più 28%, peggior titolo oggi Invest e Brioschi, meno 4,80, meno 4,30%. Grazie Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso, come preannunciato, parliamo di Alitalia, visto che venerdì scorso è stato raggiunto l'accordo con i sindacati sulla gestione degli esuberi. Eh sì, parliamo di Alitalia perché mentre eravamo occupati nel raccontare la settimana scorsa la crisi di governo, il suo evolversi e anche poi il tra virgolette precipitare della situazione, abbiamo raccontato la notizia, ma senza approfondire, di un accordo importante che si è chiuso nella notte tra giovedì e venerdì scorso, l'accordo tra l'Alitalia e i sindacati sulla gestione di 1900 esuberi. Sostanzialmente, che ha permesso di scongiurare la cassa integrazione a zero ore, lasciando a tutti i lavoratori all'interno del ciclo produttivo. In che modo? Prevede la cassa integrazione a rotazione e contratti di solidarietà per 1900 dipendenti, oltre a piani di formazione. Nello specifico, per quanto riguarda il personale di terra, la platea interessata alla cassa integrazione straordinaria a rotazione è di 4.524 addetti, sono quasi 950 operai, 3.000 impiegati, 503 quadri. Come funziona? Interesserà appunto 1.400 persone al mese, da un minimo di 2 giorni al mese per chi lavora nella manutenzione, fino a un massimo di 13 giorni al mese per alcuni impiegati, e poi verifiche trimestrali e alcuni giorni di riqualificazione. Per quello che riguarda invece i piloti e gli assistenti di volo, gli esuberi richiesti sono di 800 dipendenti, che vanno a spalmarsi su tutta la platea dei piloti e degli assistenti di volo, ossia quasi 5.000 dipendenti, con 5 giornate medie al mese di solidarietà per i piloti, con punte però di 7 giorni e mezzo per chi opera sul lungo raggio e 5 giornate medie al mese per gli assistenti di volo. Allora, ci ha raggiunto in collegamento l'amministratore delegato dell'Alitalia, Gabriele Del Torchio, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, questo è l'accordo che avete firmato con i sindacati. Esattamente. Ci sono motivi per ritenere che dovrete rivederlo o è un accordo che lei a questo punto ritiene duraturo? No, l'accordo ha il pregio di essere un accordo raggiunto con il consenso delle due parti, peraltro raggiunto anche senza manco un'ora di sciopero, quindi è la dimostrazione che mettendosi intorno a un tavolo con attenzione agli interessi dell'azienda, ma nel contempo attenzione anche ai lavoratori e a tutti quelli che in Alitalia contribuiscono ai nostri risultati, è un accordo quindi che è destinato a durare nel tempo e durare nei prossimi 3 anni. Certo, faremo dei punti di verifica ogni trimestre, se la condizione generale dell'impresa o più in generale dell'economia italiana darà segni di ripresa che si rifletteranno sul mercato domestico, potremo rivederlo, nel senso che potremo eventualmente pensare ad una chiusura di alcuni degli istituti previsti prima dei 3 anni di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ecco, domani però nel frattempo voi avrete, se ho ben capito, un'assemblea straordinaria. Sì. E qui entriamo nel tema più importante. Voi siete il dossier più scottante, non perché sia quello, diciamo, più delicato, ma quello che va chiuso per primo, a mio avviso, da parte del nuovo governo. Domani, quando il nuovo governo arriverà, domani avete un'assemblea straordinaria per modificare alcuni articoli dello statuto che potrebbero creare difficoltà all'ingresso di Etihad. Etihad è la compagnia degli Emirati Arabi, nel caso specifico di Abu Dhabi, sì. Che ha già detto di essere interessata a rilevare una quota vicina al 50% di Alitalia. Dovrete modificare alcuni statuti che stabilivano per esempio l'obbligo di OPA, di offerta pubblica, se un socio avesse superato il 50%, ho capito bene? Sì, è uno dei temi, ma diciamo che la modifica dello statuto deriva dalla nuova composizione dell'azionariato di Alitalia. Quando abbiamo fatto l'aumento di capitale alla fine dell'anno scorso sono cambiati un po' i pesi dei vari azionisti e sono entrati dei nuovi. Oggi il primo azionista è Banca Intesa, poi abbiamo Poste Italiane, poi abbiamo Unicredito, quindi con una nuova base azionaria si è reso necessario adattare lo statuto, modificarlo. Tra l'altro uno degli effetti positivi della modifica dello statuto è anche quello di rendere eventualmente più agile l'ingresso di un nuovo socio industriale. Lei parlava di Etihad perché Etihad in questo momento è di attualità, stiamo dialogando con loro, però ecco, ci tengo a precisare che la modifica dello statuto non è funzionale all'ingresso di Etihad quanto a riflettere la nuova composizione azionaria. Beh, però dottor Del Torchio, dai, insomma, avete una trattativa in corso con Abu Dhabi, vogliono il 50% obiettivamente, ma va bene, noi siamo solo che contenti se arriva un socio forte. Tutte queste modifiche hanno un sottotitolo che si chiama Etihad, no? Non necessariamente, a parte che quando parliamo di Etihad loro potranno acquisire massimo il 49%, perché questa è la normativa europea, se seguissero più del 50% perderemmo noi come Alitalia tutti i diritti di volo in Europa. Quindi, no, questo è chiaro, però al comma 9 dell'attuale statuto era precisato che questa soglia del 50% era da intendersi anche se vi fossero state azioni e quote detenute da soci che agivano in concerto. Allora, insomma, le banche intesero il credito su questo, insomma, diciamo, io sono contento, nel senso che lo modificate nella prospettiva anche di un ingresso di Etihad, questo possiamo dirlo. È una delle conseguenze, non è il motivo che ci ha portato a proporre le modifiche, ma è una delle conseguenze comunque positive. Vabbè. Ecco, restiamo su Etihad, perché nessuno sperava, mi scusi, nel partner straniero. Questa è un'operazione importante, devo dire che anche Air France KLM mi sembra che non abbia opposto fino ad ora ostacoli di rilievo sull'operazione, però è un dossier che deve essere vidimato, diciamo così, da un governo, cioè non è che l'azienda Alitalia può trattare senza un cappello e senza comunque una, mi passi il termine, benedizione governativa. Siete preoccupati che un governo che ci metterà un po' più di tempo a crearsi, da quello che capiamo, possa ritardare l'intera operazione? No, francamente francamente no, faccio una premessa: l'Italia è un'azienda completamente privata, certo. Il supporto del governo è stato fino ad oggi un supporto prezioso nella consapevolezza vedi Letta ad Abu Dhabi, certamente, vedi quanto ha fatto il ministro Lupi per il settore, quindi senz'altro molto positivo il supporto governativo, peraltro alla luce anche che questa è un'infrastruttura strategica per il paese. Noi trasportiamo 24 milioni di passeggeri, la metà dei quali sono stranieri che vengono in Italia o per motivi di turismo, area da espandere il più possibile in futuro, per motivi di business, quindi insomma ha una valenza politica strategica rilevante, e quindi la presenza del governo era giustificata da questo, non tanto dal fatto che fossero azionisti nostri, perché non lo erano e non lo sono. È importante che il nuovo governo raccolga dal governo Letta l'eredità di questo dossier, ma io sono convinto che lo faranno. Entro quando vorreste chiudere? Cioè quanto tempo? Beh, ci vuole ancora un po' di tempo, perché adesso ma nell'ordine di? Ma nell'ordine almeno un paio di mesi. Prima di chiudere, diciamo Renzi ha tempo ancora. Renzi ha tutto il tempo che vuole per darci una valida mano. Beh, questa è una nota importante, adesso c'è il traffico, poi vorrei capire anche come cercherete di non commettere errori, a mio avviso, commessi in maniera evidente nel passato. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Il nostro ospite, il numero uno di Alitalia, Gabriele Del Torchio. Dunque, Del Torchio, importante che arrivino gli Emirati Arabi, che arrivi Etihad, Abu Dhabi, anche perché lì e nel sud-est asiatico ci sono le compagnie aeree più redditizie, più interessanti, in maggiore espansione. Abbiamo avuto Emirates come ospite, ma anche nel passato Cathay Pacific. Però è noto che rispetto al piano lanciato dagli azionisti della privatizzazione dell'Italia, il piano Fenice, un errore che a questo punto tutti ritengono strategico fu quello di mollare il colpo non solo su Malpensa, ma in generale sulle rotte lunghe, le long haul come le chiamate voi, verso quei paesi dove si stava generando tantissima ricchezza, penso Brasile, sud-est asiatico, Cina, India e non solo, e concentrarvi sul traffico nazionale, anche la Milano-Roma, dove a mio avviso vi ha fatto più male il freccia rossa delle low cost. Ora mi può dire, e poi col fatto che molti clienti italiani nella fascia business devono andare a Parigi o a Monaco di Baviera, mi può dire che nel nuovo piano rivedrete questa, per essere buoni, fragilità, questo errore commesso nel passato? Beh, il nostro piano è assolutamente chiaro e va in quella direzione, va nella direzione di non l'abbandono del mercato domestico, ma se non altro il mantenimento delle nostre quote, ma soprattutto l'opportunità di sviluppare l'internazionale e l'intercontinentale. Già lo stiamo facendo, perché abbiamo appena annunciato il piano di rotte per l'estate, per la stagione summer, che prevede un notevole incremento sulle destinazioni internazionali. L'intercontinentale, nel mio piano c'è l'acquisizione di nuovi aeromobili di lungo raggio, e a partire dall'anno 21 amplieremo anche le rotte sul lungo raggio, perché è vero, la competizione ormai si fa sull'intercontinentale, perché nel mercato domestico, al di là delle intuizioni felici o meno del piano Fenice, insomma, il treno sta giocando un ruolo determinante, quindi è inutile pensare di combattere contro un concorrente che ha alcuni vantaggi rispetto a noi, meglio cercare di sfruttare le opportunità che arrivano da un mondo in cui il traffico aereo è destinato a continuare a crescere. Quindi quel piano lì è stato un errore? Non lo so se sia stato un errore, un piano che è figlio del tempo in cui è stato sviluppato. Ricordiamoci che quel piano nasceva anche con prospettive di crescita del prodotto interno lordo italiano che non ci sono state. Quando è stato fatto il piano Fenice, l'Italia doveva crescere a tassi perlomeno del 2% di PIL in più all'anno, abbiamo assistito esattamente all'opposto, tant'è che il traffico a livello italiano continua a decrescere, il mercato in quanto tale, e il mercato internazionale, intercontinentale, continua invece a crescere. Allora, ecco, quindi, però se lo modificate avete capito che quel piano non poteva più funzionare. Mi dica solo una cosa, su quali aree geografiche punterete? Perché poi, per evitare fraintendimenti, alcune le coprite voi e le coprirete voi, altre saranno in cosiddetto code sharing, quindi volerà un vettore diverso dall'Italia, anche se uno compra il biglietto all'Italia, diciamo. noi già abbiamo una presenza nel Nord America, frutto della joint venture che abbiamo con Air France KLM Delta, quindi quella è un'area che è destinata a rimanere e possibilmente ad incrementare. No, ma io volevo dire i voli diretti, cioè non mi fate passare ogni volta per Parigi. Andiamo direttamente, lì andiamo direttamente con aeromobili all'Italia, così lo stiamo facendo in Sud America, che continua a essere una destinazione importante per noi. Vogliamo espanderci verso l'Africa, che è davvero il territorio del domani, e anche dal punto di vista geografico l'Italia è in una posizione molto privilegiata per servire quelle rotte. L'Estremo Oriente, ad eccezione di del Giappone, che da tempo serviamo con Tokyo e Osaka, lo faremo in co-sharing, e quindi se andrà in porto l'operazione di Etihad porteremo i passeggeri ad Abu Dhabi, potranno trasferirsi dall'Australia a tutte le altre nazioni del Far East. Cioè, quindi il futuro, mi scusi, perché fino adesso mi portavate a Parigi delle volte, adesso invece direttamente a Abu Dhabi, poi da lì cambierò e prenderò tutte le connessioni. Esattamente. È comodo. E poi comunque con uno sviluppo importante. Ma un volo diretto, per esempio, poi adesso arriviamo anche a Malpensa, e Rinate, ma un volo diretto Malpensa, Cina, Malpensa, India, tutta la parte emergente, no? Allora, non in questa fase, anche se stiamo facendo una serie di ragionamenti. No, per l'Expo anche, 2015, dicevo. Con esatto. Expo 2015, quindi io mi sono incontrato ripetutamente col presidente Sala, abbiamo incontri a breve ancora, quindi adesso è un po' presto per dirlo. Ma diciamo che in coincidenza con l'Expo ci sarà senz'altro un incremento della capacità di volo da Malpensa. Ecco, veniamo a Malpensa, perché insomma Malpensa è sotto un tornado. C'è chi dice l'aeroporto, due aeroporti a Milano non hanno senso. Lo stesso Moretti, numero uno dell'FS, ha detto la settimana scorsa qui a Milano: decidete se devo portare l'alta velocità a Linate o se devo portarla a Malpensa. Non posso portarla sia a Linate che a Malpensa, posso portarla a Linate dove c'è una zona dell'idroscalo, oppure posso portarla a Malpensa. E qua torniamo con una vexata questio che ha prodotto anche molti danni nel passato dall'Italia. Allora, Malpensa, voi l'avete in parte col piano Fenice abbandonata, tant'è che loro hanno fatto accordi con Cathay Pacific, con Emirates e quant'altro. Io da questo punto di vista penso che non sia importante il vettore, basta che ci sia un buon servizio. Però voi tornerete su Malpensa oppure ritenete che a questo punto Linate sia più utile per voi? Mi dica. Sono due cose diverse. Da Linate è un city airport, quindi per servire l'Italia e l'Europa vicina con i voli di breve e medio raggio, Linate è in una posizione ideale, quindi ci siamo e continueremo ad esserci. Malpensa può avere una vocazione, come ce l'ha peraltro, intercontinentale, e come le dicevo prima stiamo riflettendo, valutando la possibilità di incrementare i voli intercontinentali da Malpensa. Quindi sono due destini diversi, che poi siano due aeroporti al servizio della stessa città è un dato di fatto, però anche altre città hanno una situazione simile. Ma quindi tornerete a investire su Malpensa? Torneremo con raziocinio a investire su Malpensa, sull'intercontinentale. Sull'intercontinentale, sì. Che, poi magari più avanti lei tornerà a raccontarci anche il rafforzamento dei voli intercontinentali per l'Expo, perché obiettivamente passare per Abu Dhabi, non o per solo, Parigi, per arrivare a Malpensa. Se no, anche perché Malpensa ha il vantaggio stavolta sì di essere attaccata a dove sarà l'Expo, perché insomma questo è un grande 20 vantaggio. Minuti di mezz'ora di taxi massimo. Mi dica un'ultima cosa, è contento oggi che l'antitrust abbia sanzionato EasyJet e Ryanair per oltre €1 milione per mancata trasparenza sulle offerte? Io sono contento tutte le volte che le regole del libero mercato vengono imposte. Forse la trasparenza non era uno dei punti forti delle due compagnie che lei ha citato. Quindi diciamo, è contento. Grazie Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Alitalia, ed è tutto. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.